Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Gennaio e febbraio del 1849. A Roma e Firenze è proclamata la Repubblica. Il Papa chiede aiuto austriaci in marcia. Stati Uniti in preda alla febbre dell'oro, la California si riempie di cercatori. Non solo lirica, ma anche canzonette. Da Napoli arriva alla Barcarola, Santa Lucia, e piace a tutta Italia. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione andiamo nel centro Italia. Dopo la fuga del Papa è scappato anche il Granduca di Toscana. Quanto siano solide ancora non si può dire, ma a Roma e in Toscana sono state proclamate due repubbliche. Le vicende del Granducato hanno avuto una repentina accelerazione verso la nuova forma di Stato a gennaio. Fino ad allora il Granduca si era dimostrato piuttosto disponibile verso i patrioti italiani. Nel marzo del 48, non si sa quanto per scelte, quanto per necessità, Leopoldo II aveva inviato le truppe del generale Delogier a combattere a fianco dei piemontesi. I toscani erano stati protagonisti della difesa di Curtatone Montanara. Poi però le sorti della guerra erano volte a favore dell'Austria, come si sa. Intanto però il Granduca aveva continuato nella sua condiscendenza verso i democratici toscani, arrivando a licenziare il moderato Ridolfi come primo ministro, sostituito da Capponi. Lo scoppio della rivolta ultrademocratica di Livorno, guidata da Guerrazzi, aveva portato a un'ulteriore svolta a sinistra. Dimissioni di Capponi, governo affidato a Montanelli, con Guerrazzi ministro dell'interno. Questa apparente disponibilità del Granduca verso i democratici è finita ad un tratto a gennaio. Alla richiesta di controfirmare le elezioni di 37 deputati alla Costituente Nazionale degli Stati Italiani a Roma, avanzata da Montanelli, Leopoldo ha risposto con una fuga. Prima il 30 gennaio a Siena, poi il 7 febbraio a Porto Santo Stefano, dove ha preso alloggio su una nave inglese. E così l'8 febbraio a Livorno è arrivato Mazzini, il 15 a Firenze è stata proclamata la Repubblica, mentre il tentativo di Delogier di portare l'ordine a favore del Granduca si è infranto contro il rifiuto dei suoi soldati di combattere contro i volontari livornesi. Il Granduca è partito per Gaeta, dove si trova anche Pio IX. Roma infatti è l'altro fronte caldo. Nonostante la minaccia di scomunica pronunciata dal pontefice il 1 gennaio, le elezioni si sono svolte ugualmente e tra il 5 e il 9 febbraio è nata la Repubblica Romana. Paolo Piacenza è il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. All'estero ora. La prima scoperta di pepite l'ha fatta un esploratore svizzero nel gennaio dell'anno scorso. Ora c'è chi, come il presidente americano, la chiama corsa all'oro e chi invece febbre. Fatto sta che negli ultimi 12 mesi il territorio della California, nel sud del paese, è stato letteralmente invaso da migliaia di persone in cerca del prezioso metallo. Sono 7.000 i cercatori arrivati finora, ma sembra che ora che la voce si è sparsa stiano per giungere in zona uomini e donne da ogni continente. E ora la musica. Come se friccita la luna piena, l'umare ride. Non solo di politica vive l'Italia, dunque, e non solo di politica vive Napoli in questo periodo. Ai napoletani piace tantissimo e sono in molti tra i cantanti di strada a suonarla nelle piazze, nei vicoli della città. Non solo, ma questa musica e queste parole stanno facendo il giro di tutta Italia. Il successo ha un nome, Barcarola, ma tutti chiamano questo pezzo Santa Lucia. La firma è quella di Teodoro Cottrau. Ed è tutto, vi ricordiamo come sempre, vi invitiamo ad andare a visitare il nostro sito, dove trovate il nostro giornale, il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Scriveteci a gazzettino@radio24.it, visitate la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento e visitate il nostro blog. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.